dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Ma secondo te lo possono fare apposta, cioè fanno bu bu bu in maniera tale che si interrompa la partita, così poi tanto il Milan poi perde, sì, a tavolino, è tutta una tecnica, e poi dopo così la Fiorentina se la può giocare, perché ricordiamo, no? Hai sotto mano la classifica di oggi. Cioè, eccoci qua, Juventus, Juventus campione d'Italia, sì, no? Adesso, non andiamo alle cose ovvie, diciamo Milan e Fiorentina adesso, Luca Cancellara. Il Milan 69 punti, la Fiorentina 67, quindi si giocano ancora l'ultima partita, giocano l'ultimo posto in Champions. Beh, aggiornato con il punto che c'è in questo momento, che cosa è successo questa sera lì in campo, qui in campo a Milano? Noi se avessimo un inviato serio, non so, tipo Luca Cancellara, che in realtà è qua, in questo caso qua, noi avremmo potuto parlare di quello che è accaduto in campo, cioè che a un certo punto hanno cominciato a fare bu bu bu i tifosi della Roma, Balotelli li ha zittiti, poi c'è stato tra l'altro una situazione poco chiara, il fatto che a un certo punto Balotelli commette un falletto, insomma, comunque da ammonizione, niente di grave, cose di questo genere. Muntari va vicino all'arbitro e dice no, non farlo, perché poi lui diviene è traumatizzato se tu lo ammonisci. Sì, non è che ha usato proprio questo tono. Ha preso con leggiadria le braccia dell'arbitro, ha messo le mani sulle braccia, e gli ha detto non farlo perché poi lui sta male, poi lo fa nelle interviste. Questo è il labiale vero di Muntari, che tu hai captato benissimo. Le interviste, poi dopo, poverino, queste cose qua. Ok, non do il giallo a Balotelli, do il rosso a Muntari. Muntari fuori. A quel punto, Muntari come ha risposto? Attenzione, perché stava per segnare tra l'altro la Roma proprio orora in questo momento, per fortuna che Mexex si è portato a casa il tutto, cioè ha buttato via la palla. Come ha risposto Muntari? In quel momento è rimasto un po' così annichilito di fronte al fatto che ha visto un rosso. Come, a me è il rosso? Ma se io faccio da paciere in questo caso? Non sto qua a raccontarti tutto quanto, però a un certo punto che cosa è successo? Di nuovo bu bu bu, perché Balotelli ovviamente sempre lì. È lunga questa storia. Infatti mi stai prendendo. Sai cosa faccio? Parliamone con Luca Gattuso, che è lì sì davvero fuori dallo stadio. Pronto, Luca? Mamma mia, che male, pronto. Luca, dove sei? Sono fuori dallo stadio. Ho capito, adesso c'è bisogno subito di lamentarsi. Adesso. No, ma io sto guardando le immagini di Marquinhos, che se gli si è aperta la coscia, un male, mamma mia, che male. Si è aperta, aia! Ecco, adesso l'abbiamo vista anche noi. Scusa, cosa stai guardando, scusa? Non ho capito, perché vedi prima di noi? Perché io la sto guardando sul terrestre. Voi invece la state guardando sul satellite. Ho capito, vabbè, insomma, quindi siamo un pochettino in ritardo, un pelo in ritardo. Sono qua al Derby Bar. Ma scusa, tu dovresti stare però lì allo stadio, non al Derby Bar, scusa, Vabbè, il Derby Bar è uno di quei, diciamo, di quei mezzi dove fanno la porchetta, dove c'è la birra, dove c'è tutte le cose fuori dallo stadio. Sì, ecco, diciamo che però ti sento bello caldo, potresti anche essere dentro, come si dice, in redazione, tanto per dirti, no? Non si sente assolutamente niente. Buonasera, Radio 24 in diretta, come sta giocando il Milan? Non lo so, io sono appena arrivato adesso, meno male che... sta giocando. Ma lei tutte le domeniche che c'è la partita viene qua a vedere? No. Sto aspettando due amici dentro. Sono dentro? Sì. Milanisti o romanisti? Milanisti. Ma lui cosa fa? La porchetta? O è lì per caso? No, è qua, è una persona del pubblico. Il pubblico. Salve, quanti Radio siete? 24 in diretta, buonasera. Contento, sto giocando. Sta divertendo. Si diverte un casino. Lei come si chiama? No, ma è bello andare lì, scusa Luca. Dimmi. No, dicevo, è bello andare lì a fare quattro chiacchiere con gli amici, no? Cioè al bar. Al bar. C'è il signor Ambrogio che sta divertendo tantissimo. Certo, tra l'altro. Chi è che sta giocando meglio, Ambrogio? Non si sente, Ambrogio? timido. Ma, ha visto l'espulsione di Muntari? Perché è stato espulso? Bella intervista. Ha toccato i mani dell'arbitro. Ho capito. Senti, si sente dei rumori strani, non si potrebbe anche essere un latrato, delle cose strane, dei rumori, cose strane, però non riusciamo bene a capire proprio le dichiarazioni. Allora, quindi tu sei dove, come si chiama questa specie di camioncino dove come dire, snocciolano? Si chiama Derby Bar. Spacciano porchette lì, insomma, in questo caso. Porchette, birre, eccetera, e c'hanno il televisore sul televisore che è sintonizzato sul digitale terrestre, in cui si vede la partita calamita, no? E quindi tutti quelli che passano lì e non sanno cosa fare, tutti i cronisti che rimangono fuori, per esempio, che non hanno l'accesso alla sala VIP, no? Ecco, passano e vanno lì al Derby Bar, no? Giusto? Esatto. Proprio capito. Quello. Intanto punizione di Balotelli alta. No, la vediamo anche noi. Adesso non farei il ganasso. Buonasera, cioè. Sono di Radio 24. Sì. Salve. Senta, qual è la maglietta che va via di più? Siamo arrivati nel reparto magliette, gadget. Immaginavo, certo. Il Sharawi. Quella nuova dorata che fa schifo con cui sta giocando adesso, l'avete già? Noi no. Più o meno quando prevedete di averla? Mai. Non so. L'anno prossimo. Più o meno, prezzi come sono? Magliette cosa mi costa? 20 sciarpa? Quello è, dipende dalla sciarpa. Cioè, certo. Andiamo da minimo massimo intorno ai 15. No, c'è anche le bandiere? Anche lì tutto diciamo intorno ai 15. C'è anche la sciarpa estiva, la sciarpa invernale anche. Sì. Guarda, ti leggo i testi delle sciarpe. Ah, ma avete anche la roba della Roma? Sì, oggi sì. Beh, certo. Ne avete venduto qualcuno della Roma? Poca. Ma perché ce ne sono pochi i tifosi a Roma? Che abbiamo visto noi, sì, pochi. Vino rosso. Ah, per me la al Derby Bar. Sì, ma sei al Derby Bar, hai capito? No? Cioè, ma gente quanto ha pagato il vino? Sì. Questo non lo so, veramente non lo so. Sì. Non so quanto ha pagato il vino. Intanto 0-0, lo diciamo, così scusa se facciamo un po' di, parliamo anche di calcio, no? Cioè, oltre che di tutto il resto, come tra virgolette. Guarda, ti faccio una carrellata delle sciarpe. Allora c'è il Faraone di Milano, poi Io non ho cugini, Super Mario Rossonero, AC Milan 1899, e poi c'è Dio una domenica, la diede ai rossoneri e disse andate nel mondo. Sì, scusa una cosa, però mi ha un po' sorpreso il fatto che c'è la maglietta di Al-Sharawi tira di più di quella di Balotelli. Sì, è vero. E poi volevo farti indagare su sta cosa. Sì, dai. Aspetta, sai che roba. Scusi, una cosa. Vincente proprio. Cioè. Com'è possibile che la maglietta di Al-Sharawi tiri più di Balotelli? Guarda, pazzesco. Tira di più di Balotelli. Sì, molto di più. Sì. Sui bambini, cioè sull'età? Sempre bambini. Quindi, le persone anziane sono più, non so, Rivera, no? No, non cerca niente. Non ci sono. No. Ecco, basta. Ti ho detto non dar fastidio, Luca. Tutti che vogliono Al-Sharawi. Prego, continui col vino. Vabbè, no, però ecco, allora dicevi. Nel frattempo, scusate, è arrivato il panino. Salve, Radio 24, com'è il panino, com'è composto? Salsiccia e maionese, è buono. Vabbè. Invece, cipolle e peperoni, è abbastanza pesante. Come mai siete qua fuori, no? È storia brutta e lunga. Aspetta, che c'è la storia brutta e lunga, mi piace. Tu ti chiami? Alberto. Ecco, racconta la storia brutta a lui. Noi siamo venuti da Reggio Emilia, l'ultimo abbiamo detto che c'è una pazzia, andiamo a San Siro a vedere se troviamo i biglietti all'ultimo, e credo che siamo arrivati 10 minuti in ritardo e è chiuso perché siamo partiti con la biglietteria. Quindi il panino è partito in TV fuori dal marinaro. Mamma mia, che tristezza. Quanto avete speso? Autostrada, benzina? Ah, secondo me strada 9 euro solo di autostrada, più di giorno, e in più dopo c'è la divisa la benzina. Ma tutte le domeniche fate quel video? No, è stata la pazzia un giovane. No, ma scusa Luca. Dimmi. Ok, va bene, tutto quanto. Guarda, io vorrei stare lì ore e ore ad ascoltarti su tutti questi interventi di queste situazioni. Sì, però, voglio dire, vogliamo parlare un attimo di calcio. Cioè, sì, va via. Ma non avete visto l'espulsione di Muntari? Certo che l'abbiamo vista, abbiamo anche raccontato. Ma non voi, l'abbiamo sentita per la radio. Per radio, voi avete capito perché si è incavolato così Muntari? Forse per i cori razzisti. Secondo te? Io non lo so, stavo ascoltando. Vabbè, stai guidando. Perché è stato espulso per i cori razzisti. Sì, ecco Luca, fermati, placati un po', perché non ti riusciamo più a stare dietro. No, voglio dire, io capisco che c'è adrenalina perché ti abbiamo liberato, no? Sai quando sciogli i cani, no? Cioè, fuori, cominciano a abbaiare qua e là. Che è successo? C'è una luna fuori stasera. Vabbè, dai, smetti. C'è una luna, guarda. Dai, non farei l'infame, però adesso fai una cosa, anzi. Però uno, c'è uno spicchio di luna e poi sotto a destra c'è una stella, un cielo lì. Sì, però Luca, tu hai detto, vado là e voglio parlare di Allegri che se ne va. Oh, avessi detto una volta Allegri, cioè, capito? Non l'hai detto mai. No, perché io ho fatto l'attualità. In questo caso. Allegri se ne va? No, rimane. Vabbè, dai. Senti, posso mandare Strade in diretta? Sì, mandare Strade, anche perché qua a Reggio Emilia volete saperle adesso, vi do le notizie sulle strade. Vabbè, tu intanto torna, dai. No, devi darmi le notizie per Reggio Emilia, se no non torna. Sì, ragazzi, vabbè, adesso possiamo mandare le strade in diretta, però tu torna, ciao, grazie. Dai e vai. Strade in diretta. Buonasera, il traffico intenso in uscita dall'Italia, circa 2 ore e mezza di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco, per questo motivo è stata chiusa la 5 da Courmayeur Sud. Code verso la Francia anche sulla 32 Torino-Bardonecchia dal Savurse per raggiungere il traforo del Fréjus. Ci sono 4 km di coda poi in direzione svizzera sul raccordo autostradale di accesso al traforo del Gran San Bernardo. Resta intenso il traffico sulla 14 Adriatica in direzione nord verso l'Autosole con coda a tratti tra Imola e Bologna-San Lazzaro. Infine verso la capitale c'è 1 km di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il nodo con il grande raccordo anulare. È tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Dai e vai. Non è solo calcio. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say. Mancini è senza lavoro, cioè disoccupato sostanzialmente, insomma, adesso proprio così brutale. Dobbiamo dirlo, perché l'hanno appena fatto fuori, l'hanno detto ciao, è stato bello, grazie per tutto quello che ci avete dato, quello che ci hai dato, è stato veramente un momento interessante per tutti noi, però devi andartene via. E quindi lui se n'è andato. Beh, nel frattempo, mentre anche Luca Cancellara ha deciso di andarsene qui dallo studio e quindi a bighellonare, non si sa bene dove, se non a far telefonate, noi a questo punto però abbiamo già pensato che oggi poteva essere una giornata importante, in particolare per un calciatore, cioè mentre Luca Cancellara di là che sta ciondolando in regia, prima o poi tornerà anche Luca Gattuso, io mi appropinquo e vado a parlare direttamente con Massimo Agostini, che è il titolare della Idea Prototipi. Voi dite, perché dovete parlare dell'Idea Prototipi? Buonasera intanto Massimo Agostini, come sta? Buonasera a voi. Sta tutto bene? Bene, grazie. Sì. Poi oggi abbiamo vinto, quindi. Vabbè. E quando dite voi, parlate di Udinese? Esatto. Ecco. Allora diciamo così, che oggi però c'è, come dire, un riso amaro in tutto questo, no? Cioè, in tutta questa vicenda, perché il buon di Natale è uscito fuori in barella. L'abbiamo visto uscire fuori in barella oggi. Pronto? È ancora lì? Sì, l'ascolto. Ah sì, no, sì. Pensavo che l'avesse già messo giù e fosse svenuto per questa notizia. No, l'ha vista anche lei. Ha visto la partita, però è rimasto un po' senza parole, diciamolo. E allora che cosa è successo? Che noi invece volevamo parlare proprio di Natale con lei, perché voi quando lui ha fatto il gol numero 100 le avete dato anche qui un qualche cosa di molto particolare. Che cos'era? Mi ricordi, una scarpa? Eh? Al numero 100 gli abbiamo congelato le scarpe. Cioè, spieghiamo bene che cose che si tratta, perché sì, sembra più uno scherzo da nonnismo di caserma, cioè giriamo le scarpe, cioè, capito? Cosa avete fatto? Assolutamente, abbiamo utilizzato una tecnologia innovativa, abbiamo preso le sue scarpe, abbiamo preso la terra del campo di calcio, l'abbiamo immerse in un liquido particolare, dove dopo 10 giorni il tutto si è stabilizzato e tutto è rimasto. Fra 2000 anni chi diciamo, troverà le scarpe e troverà come le abbiamo congelate noi 2 anni fa. E conferma anche che il prato sarà uguale, quel pezzo di terra che ha portato su. Tutto. E tra l'altro la scarpa è stata congelata, è stata fatta una triangolazione fotografica, è stata congelata nella posizione esatta in cui lui calciava il pallone nel momento del gol. Ecco, allora, attenzione, perché questo momento è un momento importante. Allora, quindi voi avete ibernato la scarpa e fino a qua va bene. Ora c'è un problema, perché voi avete dedicato per il 150° gol una statua a lui, giusto? Esatto. Ecco, esatto. Qui non stiamo parlando di ibernazione in questo caso. Ecco. Visto che l'avete visto giocare anche oggi. Infatti ero un po' preoccupato, voglio dire. Di che cosa si tratta invece questa? Questa qui, anche questa è una tecnologia innovativa. Infatti noi abbiamo i laboratori in area Science Park a Trieste, dove diciamo è tra l'altro il polo tecnologico più importante d'Italia, più grosso d'Italia, ecco, dove si fa ricerca e dove noi abbiamo installato questa tecnologia, dove anche Totò è venuto giù a Trieste, è venuto da noi a Trieste. Noi in 1,3 secondi l'abbiamo scansionato nella posizione esatta in cui lui faceva il 150° gol, poi grazie ai nostri tecnici... Scusa, ha fissato il gesto atletico? Esatto. Ma dai! E lui è riuscito a ripeterlo? Sì? Beh, diciamo... Ci siamo aiutati con... Ah, con le fotografie, le immagini... Sì, con le immagini sicuramente, avevamo tutte le immagini. Certo. Però diciamo, abbiamo dovuto, siccome il gesto atletico, tra l'altro ha fatto un gol in maniera molto particolare, se voi lo ricordate, lui stava cadendo mentre faceva il gol. Sì. Quindi non è che li seguiamo tutti i 150, però diciamo che in questo momento qua, adesso che ce lo sta raccontando, soprattutto perché ce l'ho davanti, sì, me lo ricordo, ecco, diciamo, lui stava scivolando, cadendo. Sì, ecco. Stava cadendo, e quindi noi abbiamo dovuto, diciamo, bloccarlo, imbragarlo in maniera tale che lui si riposizionasse nella stessa posizione. E qui voi l'avete scansionato poi lì, In 1,3 secondi. In 1,3 secondi, quindi non ha perso neanche tanto tempo, è andato subito a allenarsi. Che è successo poi materialmente? L'avete scansionato e poi? Poi, diciamo, questa matematica, quindi abbiamo preso una matematica a 360 gradi nello spazio, è stata messa, diciamo, a punto dai nostri grafici digitali. Poi, una volta diciamo messa a punto la matematica, quindi otteniamo una tridimensionalità perfetta, ricordo la precisione di un cappello. No. Sì. Ma dai. E quindi? E poi, diciamo, con un'altra tecnologia che noi abbiamo nei nostri stabilimenti in provincia di Udine, a Basiliano, l'abbiamo riprodotta a colori. Ecco, praticamente abbiamo creato questa statua. Praticamente avete l'omertà di un cuoco, non dite mai le ricette fino in fondo, dite, poi abbiamo un'altra tecnologia che facciamo questo, poi abbiamo un'altra tecnologia che facciamo quest'altro, però più o meno avete questo approccio, insomma, tra virgolette. Morale della favola, la domanda sorge spontanea a noi e a migliaia e migliaia di ascoltatori che probabilmente speriamo di avere. Allora, perché tutto questo? Perché, infatti, noi... Oggi sui giornali abbiamo messo un titolo, un attimo per sempre. Sì. Perché? Perché in un attimo, quindi in 1,3 secondi, noi immortaliamo un gesto, in questo caso di un atleta, o immortaliamo un personaggio, e poi questo personaggio rimarrà per sempre, questa matematica rimarrà per sempre. Fra 100 anni avremo la tridimensionalità della persona, non avremo una fotografia bidimensionale, ma avremo la tridimensionalità. Ecco, perché in questo momento mi vengono soltanto persone che non vorrei vedere, tra l'altro per sempre, cioè in questo passaggio. Cioè la prima cosa che mi viene a dire, no, quella persona per sempre nel giardino, tra l'altro, perché questa è una statua, stiamo parlando di questo, no? Cioè, esatto. Quindi questo sarebbe abbastanza increscioso, tipo i nani, no? Cioè quelli che si mettono lì, no, non nel senso che lui è più alto, voglio dire. No? Tra le altre cose, lui è un grandissimo, non un grande, ce l'ho sempre fatto a calcio da ormai 10 anni, quindi figuriamoci, lui è un grande assolutamente, però voglio dire, quindi il concetto è quello che se ognuno si vuole fare la sua statua di se stesso, in qualche modo può farla, e questo è questo che ci sta dando come notizia in questo elemento. Certo, non tutti possono fare questo gesto atletico, però ognuno può scegliere il gesto atletico che vuole. Esatto, uno può immortalare se stesso per il futuro, per i posteri, per chi vuole, insomma. Ecco, ma è a colori? Sì, tutto a colore. Ecco perché non lo vedevo bene da questo punto di vista. Vabbè. Insomma, quindi questo è adesso, ovviamente, l'ultima domanda, poi la lasciamo andare. Nel frattempo 0-0 sempre per tra Milan e Roma, quindi niente di particolare in questa fase. La domanda è, cominciamo da quella più tranquilla. Quanto costa la scarpa di Natale? Quella che è stata congelata. Quella dei 100 gol, diciamo, è stata giudicata all'asta a 6.000 euro. Perché okay. Poi ci tengo a dire una cosa. Sì. Noi questi due progetti, dei 100 gol di Totò di Natale e dei 150, l'abbiamo, diciamo, portato avanti insieme all'associazione Udinese Club, quindi a tutti i tifosi friulani, non solo friulani, anche nel mondo, diciamo, perché Totò, essendo una persona particolarmente generosa, ha voluto donare una scarpa in beneficenza, in questo caso una statua in beneficenza. Infatti noi abbiamo fatto due statue e una vana in beneficenza. Ecco, allora in questo caso la statua quanto viene a costare? Quanto parte con l'asta? Allora, la statua a oggi era circa sui 2.300 euro, ma l'asta si chiuderà giovedì sera, alle 8 di sera. E saremo... Ma ho già sentito cifre molto molto importanti. Importanti quanto? Diciamo, ci avviciniamo ai 10. Ah, però... Per la statua di Natale. Forse qualcuno anche di più. Tutto questo andrà a una Ollus, giusto? Alla Ollus dell'Udinese. All'Ollus dell'Udinese. Bene, noi la ringraziamo moltissimo per questa sua... ci ha illuminati, quindi è arrivato anche qui Luca Gattuso che la saluta e che adesso gli spiegherò che avrà questa opportunità di rimanere qui immobile dentro lo studio per i prossimi 2000 anni, insomma. Se no? Volete immortalarvi, voi mi chiamate, io vi immortalo. Perfetto. Sì, non so se... Forse se lui ti ha accorto siamo noi, non so se gli altri... Ci facciamo immortalare. Ma adesso non esageriamo, sì. Non è una foto, poi ti spiego, dai, non ti preoccupare. Ci mettiamo qualunque poco. Grazie, è stata una bella serata. Siete dei grandi, buona serata. Bene, mai quanto lei. Grazie. Non lo conosci, scusa, come fai a dirlo? Per principio. Ma che scusa, modi ma sono? Immortalare. Dopo ti racconto, poi sta buono. Zitto. Il giro di valzer che abbiamo lanciato oggi, intanto tiro da lontano, molto interessante, a parte la Roma, però fuori. Intanto sta entrando Pazzini dentro il Milan, però sempre 0-0 Milan-Roma, e quindi ne parleremo poi in seguito di questa partita, perché ne farà sicuramente discutere. Esce Flamini, 35esimo. Ecco, però stavo per dire una cosa particolarmente interessante. Ne abbiamo parlato oggi pomeriggio. Sì, probabilmente era di qual è il giocatore che non vorreste più vedere l'anno prossimo nella vostra rosa. Che panino mangi stasera? No, però l'abbiamo fatto stasera. Abbiamo parlato anche di quello, però non abbiamo parlato. Quelli di Reggio Emilia sono partiti a Reggio Emilia e non entrano allo stadio. Ma vabbè, lasciali stare, cioè adesso no, magari stanno ascoltando, è Luca che vi sta prendendo in giro. No, ecco, ne abbiamo parlato oggi, parlavamo di allenatori, non avevamo contemplato Mancini. Mancini sì, libero, è vero. Potrebbe andare al Napoli. Ecco. Così, Mancini tutti quando andranno al Napoli. Cioè, vabbè, abbiamo detto Mazzarri va al Milan, Allegri va alla Roma, resta libero a Napoli, non è che resta libera tanta roba. Poi? Oppure potrebbe andare la Juventus non ci può andare perché i rapporti sono lesionati. All'Inter neanche, perché Moratti ha già detto a Stramaccioni che è confermato. Nel frattempo esce Osvaldo con la testa bassa e lo sguardo molto corrucciato. Molto corrucciato. 36esimo. Voglio capire quando è che è stato detto che Stramaccioni è confermato. Beh, due giorni fa hanno fatto un incontro. Una riunione di un'ora e mezza. Sono cose che si dicono, poi dopo vediamo, insomma, questa... No, ma Mancini all'Inter non ci torna. No, Mancini all'Inter no, però torna. Insomma, può darsi che qualcuno ci passi. Dove? Sempre Napoli. Yeah. d'accordo con me, cioè, no, no, è perché il problema è che ha sbagliato l'articolo, hai capito? Sì, no. Cioè non è che siete da clinica psichiatrica, questo è un sms che è arrivato sul 349-238-6677. Sì. Ascoltatore, ascoltatrice, siete in clinica psichiatrica, perché noi non andiamo in onda da Viale Monterosa. Ma sta buono lì, non andiamo in onda dalla clinica. Sta buono lì, non esagerare, adesso dopo. È stato Luca Gattuso che ha offeso tutto quanto il gruppo 24. Lo dico così, perché non vorrei no, che in clinica. No, ma no, cioè, le pareti sono bianche. Ti porto la frutta, non ti preoccupare. È preso in mezzo Marchigno. Si accentra Robinho. Palla dentro per Pazzini, lunga. Non può arrivarci Pazzini. L'idea era giusta perché tutti e due hanno fatto il movimento, anche Balotelli, ma lui ha preferito quello che era più pericoloso, era appunto la punta centrale Pazzini. Dai e vai. Hai la partita IVA? Sei una ditta individuale? Scopri Legalmail, la PEC posta elettronica certificata nata dall'esperienza InfoCert. Per te la casella Legalmail è gratis per 6 mesi. Facile, sicura, affidabile e sempre accessibile dal tuo smartphone. Legalmail, perché la qualità è valore. Per le ditte individuali la PEC è un obbligo di legge entro il 30 giugno. Dillo al commercialista e corri su legalmail.it. È un prodotto InfoCert. Dai e vai. Non è solo calcio. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on her streets 'cause she's my companion. I walk through her hills. Bella, eh? Però sti Flying Pickets adatto, ma poi parte, no, a un certo punto? Sì, però due maroni, cioè, no, bravi, bravi, però insomma anche però un po'. Devo dire all'avvocato dei Flying Pickets che quello che ha detto due maroni è Sergio Ferrari. Ma allora non è possibile, no, perché... non si può andare avanti così, cioè. Cioè, in questo caso degli avvocati bravissimi. Vabbè, comunque cambio totalmente e vado direttamente con quelli che tutti quanti noi conosciamo ormai da tempo, insomma, Questa notte si sono giocate le partite di ritorno dei primi due quarti di finale dei playoff del Clausura messicano. A mezzanotte il Club America è sceso in campo contro i Pumas per confermare l'1-0 dell'andata. Al minuto 22 gli ospiti si portano in vantaggio con un'azione fantastica. Da centrocampo Romagnoli effettua un lancio lungo in area e Chiapas, addomesticandolo col petto, lo lascia Ramirez che con una girata sensazionale trafigge Muñoz e 1-0. Al minuto 57 l'America ristabilisce la parità. Un flipper rocambolesco in area di rigore consegna la palla al Chucho Benitez che da pochi metri non ha difficoltà a mettere nel sacco l'1-1. Ma è il minuto 94 che l'ecuadoriano si esalta. Pumas bilanciati, solo 3 uomini nella loro metà campo. Benitez prende palla, ne fa fuori 1, 2 e trafigge il portiere dal limite. America in semifinale. Poco dopo tocca a Tigres e Monterrey. Al minuto 13 padroni di casa in vantaggio. Torres va a servire il carioca Dani Ligno con un lancio lungo al vertice destro dell'area. Sistema il pallone con il petto e gira furiosamente sul secondo palo. Gol pazzesco e vantaggio del Tigres. Situazione che dura 20 minuti. Al 33esimo Jimenez, difensore del Tigres, cicca incredibilmente un disimpegno. Quello che dovrebbe essere un rinvio alla viva al parroco diventa un pallonetto inarrivabile per il portiere. È 1-1. La prima semifinale sarà dunque America Monterrey. Da Giuseppe Enrico Battaglia per Dai e Vai è tutto, a voi studio. No, adesso voglio vedere se sei stato attento. Attentissimo. Allora, il Chucho Benitez in che squadra giocava? Quella che ha vinto. Il Chucho Benitez è quella che ha vinto, scusa. No, perché ha fatto un paio di azioni il Chucho Benitez. Benitez, tu lo stai sottovalutando. Quando poi giocherà nell'Inter, esatto. Perché sicuramente giocherà, verrà comprato da Moratti. Alla prima partita si infortunerà il Chucho Benitez. Se noi facciamo due servizi sul Chucho Benitez, secondo me è già l'Inter si interessa già a questa cosa. Il Chucho Benitez io lo seguo adesso. Adesso lo seguo il Chucho Benitez. Vabbè, dai, cambiamo argomento. Basta col calcio, perché intanto il calcio continua, Milan-Roma 0-0, noi pensavamo che a quest'ora fosse già finita, questa partita invece no, è ancora avanti, va ancora avanti, e quindi ne approfittiamo per toccare invece un altro argomento, andiamo a toccare un argomento che abbiamo già e che tutti quanti voi siete anche un po' storditi già dalle notizie che arrivano dal Giro d'Italia, ma ne parliamo in una maniera un po' particolare. Intanto noi ci alziamo in piedi e siamo... rigore? No, guarda che si arrabbia se lo interrompiamo questa cosa, guarda, viene permaloso, guarda. Una cosa è, noi siamo emozionati di avere qui in trasmissione con noi Matteo Caccia. Pronto Matteo? Ciao, buonasera a tutti. Che emozione. Mi sembra un po' esagerato, sì. Sergio, però Matteo Caccia, la la la la la la, Matteo Caccia, la la la la la la, Matteo Caccia, vabbè, ok, scusa. Sì, Matteo, potresti impostare un po' di più la voce, perché sennò non ti riconosco. Guarda, dovresti mettermi tipo una delle basi che mi mette Bonini di solito sotto. Senti, l'unica allora... che abbiamo così sotto mano l'hai sentita un attimo fa, vuoi te la rimetto? No, va bene così. Allora Matteo, no, ti abbiamo disturbato perché in realtà tu hai scritto, interpretato con tra l'altro musica originale di Gianni Coscia la maglia nera, un gesta e ingegno di Luigi Malabrocca, giusto? Giusto, accadeva qualche anno fa ormai, sì. In realtà però l'ho concepito, giovane, sì. Sì, più di adesso, l'avevo concepito, l'avevo scritto, avevo soprattutto conosciuto Luigi Malabrocca che era ancora vivo in quegli anni, che erano esattamente il 2006. E, lo incontrai 5 volte nell'arco di 10 mesi, andando a trovarlo a casa sua a Garlasco. Lui stava nella Lomellina, dove praticamente aveva vissuto tutta la vita. E lo incontrai 5 volte, scrissi il testo e lui purtroppo morì 2 mesi prima dell'inizio dello spettacolo. Ecco Matteo, non abbiamo ancora detto chi è Luigi Malabrocca, perché noi lo sappiamo, però gli ascoltatori sicuramente no. Ma secondo me gli ascoltatori sopra i 55 anni un pochettino se lo ricordano. Quindi Luigi... tutti noi. Esatto. Grazie Matteo. Grazie. Luigi Malabrocca era diventato famoso perché correva il Giro d'Italia, ma aveva capito che arrivare ultimo era più remunerativo che arrivare decimo, ventesimo, trentesimo. E quindi arrivava ultimo al Giro d'Italia e quindi, visto che il primo aveva la maglia rosa, l'ultimo venne per la prima volta soprannominato la maglia nera. Di fatto fu l'uomo che inventò quella cosa lì, cioè che arrivare ultimo poteva essere una figata per certi versi. Ecco, ma perché? Che cosa vinceva materialmente? Ecco, guarda, questa è la domanda fondamentale che io gli feci la primissima volta, perché quando io l'ho visto, lui la prima cosa che mi fece vedere furono i trofei delle gare che aveva vinto, non delle gare che aveva perso, ovviamente, perché certo. Lui era un ciclista, era un corridore, certo. Era uno sportivo. Quando io arrivai con tutto, ovviamente, tutte le mie pippe, dicendo chissà questo, cioè, questo era una sorta di eroe romantico, certo. Che si è portato sulle spalle il peso degli ultimi, no, era proprio una pippa, e lo ripeto esattamente così, perché lui mi disse lo facevo perché avevo bisogno di soldi. E siccome arrivare, lui era un indipendente, più delle volte non aveva una squadra di appartenenza, quindi non gareggiava con... Quindi lui andava da solo? Lui, guarda, all'epoca i corridori indipendenti venivano aggregati in una cosa che venivano chiamati gruppi. Il gruppo misto, insomma. Esatto, una roba del genere. Per cui non aveva di fatto uno stipendio, non aveva una paga, e si era accorto che arrivando ultimo stava simpatico al pubblico che gli faceva dei regali, banalmente. Gli regalavano prosciutti, salumi, formaggi, damigiane di vino, bottiglie d'olio, lui le rivendeva ovviamente e portava a casa soldi, e per soldi intendo che la prima volta che diventa maglia nera, cioè che diventa, insomma, sì, che inventa questa cosa, è il 1946 e porta a casa 60.000 lire, che è l'equivalente di quello che ha portato a casa uno che è arrivato quarto. Però c'è cioè una cifra non indifferente, mi sembra. E quindi, sì, insomma, era una roba per cui lui diceva... Che anni sono questi? 49, sono 50? Esattamente il dopoguerra. Guarda, lui è maglia rosa nel 46 e nel 47, non gareggia nel 48, e nel 49, quando ritorna al Giro d'Italia, e lui a quel punto è un personaggio vero e proprio, cioè a quel punto lui è la maglia nera, per cui certo. I giornalisti lo cercano, gli fanno interviste, nel 49 lui la perde. La perde perché arriva questo corridore che in realtà non vuole gareggiare per arrivare ultimo, ma è giù d'allenamento. Tra l'altro questa cosa è particolare perché questo corridore, che si chiama Sante Carollo, viene chiamato dalla Villier Triestina, che era la squadra dell'epoca, perché il capitano, cioè Fiorenzo Magni, che è mancato pochi mesi fa, ha la febbre. Magni partirebbe col numero 1 perché ha vinto il Giro d'Italia dell'anno prima, non può correre, chiamano questo Sante Carollo che è giù d'allenamento e comincia ad arrivare ultimo, fino a che annusa che questa cosa è un business, ovviamente. Certo. Tanto più perché i giornali e la radio, con una trasmissione che si chiama Giri in Giro, che è un programma Rai, si accorge che davanti c'è la gara tra Coppi e Bartali e dietro c'è quella tra Carollo e Malabrocca. E nonostante lui le tenti tutte, compreso nascondersi nelle cascine, far passare il gruppo, eccetera eccetera, perde la maglia nera e a quel punto decide di mollare il ciclismo su strada e si dedica invece al ciclo campestre, che è un altro tipo di ciclismo, è più o meno, storia, esatto, è più o meno tipo il ciclo cross, una roba, esatto, del genere, e diventa due volte campione nazionale italiano, quindi in realtà c'è una sorta di parabola, no, da ultimo a primo, però sì. Luigi Malabrocca è famoso perché era la maglia nera. Era la maglia nera, quindi era identificato, ma soprattutto comunque questa storia che è riuscito in qualche modo nel dopoguerra anche ad affrontare uno sport di questo genere, che era faticosissimo tra l'altro. Perché le strade non c'erano, erano bombardate le strade, esatto, tra le altre, esatto. Lui faceva 100 km al giorno da solo, mi diceva, cioè in un'epoca in cui dopo la guerra la gente cominciava magari a fare dei lavoretti, lui pigliava la bici e andava, e quando gli chiesi qual è la differenza sostanziale tra il ciclismo di oggi, però oggi intendo appunto dal 2006, e il ciclismo dell'epoca, lui mi ha proprio detto così: le strade. Sostanzialmente le strade. Non tanto la bici quanto le strade. Non tanto la bici, esatto, quanto le strade. Sì. Poi mi diceva: adesso se vuoi fare una fuga, adesso è più difficile perché la strada è uguale per tutti. All'epoca invece, se c'erano delle buche, tu potevi studiarti il percorso, farti una fuga in modo che gli altri facevano fatica a starti dietro per le buche della strada. Ecco, vabbè. Senti Matteo, noi ti ringraziamo moltissimo per la tua disponibilità, facciamo sentire subito un pezzo che ci hai mandato, dedicato proprio a Malabrocca, tratto dalla maglia nera e dallo spettacolo. Grazie e una buonanotte intanto. Grazie, ciao. Ti interessa, Totti è stato espulso, volevo darti questa notizia, proprio mentre tu parlavi. Ma quanto stanno? Sempre 0-0, sono nel recupero, 6 minuti di recupero, sono al 49esimo, ti è cambiata la serata? Non stavo guardando, quindi direi. Ah, vabbè, è andata già qualcosa. Ciao, grazie, ciao, buona serata. Bene, allora andiamo, no? Quindi sì. A questo punto Matteo caccia Malabrocca. Aspetta che lo lancio io perché devo cercare io i tasti. Non puoi lanciarlo tu visto che non c'hai i tasti. No, fammelo lanciare a me, no, che no, c'ho i non tasti davanti. No, non sto lanciando. Ecco, grazie, molto gentile. Intanto diciamo che ricordiamo che Totti è stato espulso per una gomitata su Mexes. Beh, dai. Sì. Era marcato da Mexes, gli ha dato una gomitata, è stata espulsione diretta. Pochi istanti prima c'era stata una ammonizione di Totti, non è doppia ammonizione, ma espulsione diretta. La maglia nera e Matteo caccia. Filastrocca del gregario, corridore proletario, che ai campioni di mestiere deve far da cameriere, e sul piatto senza gloria serve solo la vittoria. Al traguardo, quando arriva, non ha applausi, non ha evviva. Col salario che si piglia, fa campare la famiglia. E da vecchio poi s'acquista un negozio da ciclista. Gianni Rodari. Il negozio di Garlasco De Luigi si chiama Luigi Malabrocca, riparazione cicli, casa della gomma. Ci lavora in inverno quando non è in giro a gareggiare, solo che Malabrocca si stufa in fretta, lui non è mica un ciclista, lui non è un meccanico, lui è uno che in bici ci va, mica la aggiusta, è un corridore, insomma, è un onesto lavoratore del pedale, così si definisce lui. Un giorno il suo amico Fausto Coppi gli dice: «Per conto mio, te cinese sei un uomo di gran fondo, a 35 all'ora arrivi in capo al mondo, a 45 però sei del gatto, addio, semaforo rosso». E quindi perché Malabrocca ha fatto questa scelta? Cioè, perché ha deciso di arrivare in ultima posizione? Lui è un passista, è un gregario, lui è un buon corridore. Cioè, lui è uno, appunto, che a 35 all'ora arriva in capo al mondo. Questa è stata la prima cosa che io ho chiesto a Luigi Malabrocca quando l'ho incontrato un bel po' di anni fa, nel 2001. E lui ha risposto a questa domanda nel modo più nobile e più comprensibile possibile, alzando pollice, indice e strofinandoli insieme. Per soldi. Questo è il suo mestiere. Questo è il modo in cui lui mangia e dà da mangiare alla sua famiglia, perché nel frattempo Malabrocca si è sposato. Nel maggio del 45 porta sull'altare Ninfa Campeggi, la sua fidanzata di sempre, l'infermiera del medico condotto di Garlasco, che presto darà alla luce prima Lezio e poi Luciano, i due figli. Insomma, C'ha una famiglia a cui pensare, Luigi. Non può certo permettersi di correre così, solo per la gloria o per la passione. E quindi partecipa a tutte le gare possibili e immaginabili, al nord, al centro, al sud. Un giorno va a fare una gara a Pescara, una gara in velocità, una gara di 120 km, e ci va in bicicletta, 600 ad andare e 600 a tornare. E poi partecipa alle grandi corse a tappe, dà una mano alle grandi squadre, quando queste gli garantiscono ovviamente un contributo economico in cambio dell'aiuto al loro campione, e poi usa il cervello. Durante una gara nel 50 sono in foga in due. Lui è Sergio Toigo. Toigo fa una gomma e, contravvenendo al regolamento, cambia tutta la ruota invece che solo il copertone, ovviamente, perché ci mette meno tempo. Ma la Brocca è lì vicino, vede e tace. Ripartono. A un certo punto l'altro lo guarda e gli chiede: «Cos'è, ma la Brocca? Vuoi sporgere reclamo?» E Luigi, ovviamente serafico, risponde: «Manco per sogno, tra noi la solidarietà è fondamentale. Ora facciamo così, mi dai 50.000 lire e non ne parliamo più». L'altro lo guarda: «Ma come 50.000 lire? Ma mica le chiedo a te, fammele dare dalla tua società». A fine gara Malabrocca ha in tasca 50.000 lire, quando il premio per il vincitore erano 10.000 lire. Non è difficile quindi immaginare cosa sta per succedere, a partire dal Giro d'Italia del 46, quello che torna a vestire il primo in classifica con una maglia rosa, quello che per la prima volta avrebbe visto l'ultimo elevato al rango dei primi. Torniamo nel sole e nelle macerie della Milano del dopoguerra e scopriamo finalmente come la testa di Luigi Malabrocca partorisce l'idea della maglia nera. Dai e vai. Strade in diretta. Buonasera, resta intenso il traffico in uscita dall'Italia, circa 2 ore e mezza di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco. È stata chiusa per questo motivo la 5 da Courmayeur Sud. Code verso la Francia anche sulla 32 Torino-Bardonecchia per raggiungere il traforo del Fréjus. Ci sono code in direzione Svizzera sul raccordo autostradale di accesso al traforo del Gran San Bernardo, al momento circa 1 chilometro. In entrata verso il capoluogo lombardo ci sono code sull'Autosole alla barriera di Milano Sud e Melegnano provenendo da Bologna. Resta intenso il traffico anche sulla 14 Adriatica in direzione nord verso l'Autosole, con code a tratti tra Imola e Bologna-San Lazzaro. Inoltre in prudenza la guida per i temporali in atto con grandine proprio sulla 14 in Romagna tra Rimini e Riccione. È tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Take me now, baby, as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Dai vai, Milan che pareggia con la Roma, Totti espulso, Muntari espulso, vari sì. A parte nei confronti di Balotelli, partita sospesa, sì, un paio di sì, un minuto e mezzo, non tanto, sì, però comunque è significativo che l'abbiamo sospesa, non certo, tanto la durata della sospensione. Sono rimasti in campo, non è che sono usciti, sono rimasti lì e via dicendo. Insomma, che cosa comporta questa partita? Comporta il fatto che la Roma non potrà andare nelle coppe, sicuramente. Perché, la Roma? Sì, la Roma non ce la farà, perché a 59 punti non può raggiungere l'Udinese, a meno che, questo per quanto riguarda i risultati del campionato, a meno che non vinca la Coppa Italia, perché la vittoria della Coppa Italia, la finale sarà fra Roma e Lazio, darà un posto in Europa League, quindi l'ultima possibilità per quanto riguarda la Roma o la Lazio è la Coppa Italia. Ma però diamo la notizia vera, e che però è ancora aperta la sì, battaglia. Esatto, per quanto riguarda la Champions invece il Milan sale a 69 punti, la Fiorentina a 66. Il Milan deve giocare a Siena col Siena, la Fiorentina deve giocare a Pescara col Pescara, quindi in caso di sconfitta del Milan e vittoria della Fiorentina andrebbe la Fiorentina in Champions, in caso di pareggio vittoria del Milan dovrebbe andare però, in Milan. Però, beh, a Siena. Stiamo parlando di Milan. Milan-Siena. Siena-Milan. Magari sei, ma c'è un momento così, no? Che... Una botta di vita di Iachini. Di tutto Siena, buono, si sa. Tanto ci hanno scritto sul 349-238-6666. Vi chiedo solo di salutare da parte mia e tutti i genovani il signor Beppe Iachini. Guarda questo... che ironico questo. Sì, no. Molto ironico. No, davvero? Sì, molta cattiveria. Non l'avevo mai sospettato, non l'hai mai sospettato. No, beh, ma... Però parliamone di cose vere, parliamo di cose serie, parliamo di cose che accadranno. Stiamo parlando di Pechino-Parigi. A nuoto? Ma no, no, dai, dai, stiamo parlando di cose serie, stiamo parlando di praticamente di un una gara di dedicata con autostoriche. Le autostoriche, parteciperà una Lancia Fulvia Coupé 1300, due torinesi sono alla guida di questa auto, un solo equipaggio italiano e una sola auto italiano dalla città proibita alla Torre Eiffel. E noi ne parliamo direttamente con Gianmaria Hagen. Pronto Gianmaria? Sì, pronto, sono in linea. Oh, bene, ma sei qui in Italia comunque? Sì, sì, sì, sono a casa in questo momento. A casa in particolare, in questa sì. Cosa. Vabbè, insomma, allora parlaci dettagliatamente di questa gara, cioè una gara a parte Pechino-Parigi, giusto? Sì, Pechino-Parigi, è un ritorno come, no? Un aiuto per ritornare a casa, forse se si facesse il percorso inverso, man mano che ti allontani da casa ti sentiresti più sperso, soprattutto nella Mongolia, nel deserto, da solo. Ecco, che giro fate? Perché da Pechino a Parigi si possono fare molti percorsi, qual è più o meno il tragitto che farete? Quest'anno, ogni 3 anni, questi organizzatori inglesi predispongono un diverso percorso. Quest'anno si attraverserà soltanto per un paio di giorni la Cina e si guadagnerà immediatamente la Mongolia e si procederà verso ovest, nord-ovest per 9 giorni, 2500 km in Mongolia, poi si sforerà attraverso le montagne nella Siberia del Sud, si attraverserà per una decina di giorni il sud della Russia per entrare in Ucraina, altri 4 giorni in Ucraina, Slovenia, Austria, Svizzera e finalmente Francia e Parigi. Poi lì è tutto facile nel finale. Vabbè, è tutto in discesa, no? Quella parte lì, no? Che si fa? In pratica gli organizzatori andranno anche nei paesi più, come dire, più vicini a noi come tradizioni a cercare delle strade particolarmente impervie. In Mongolia non avremo un cosiddetto roadbook, cioè una serie di vignette con i bivi. Lì abbiamo una programmazione che è tutta GPS, certo. Navigheremo praticamente nel deserto come trovarsi nel mare con dei waypoint ogni 5 però col chilometri. GPS, una volta si andava con la bussola e a volte si guardava soltanto le stelle, quindi meglio, sì. No? Bussola sestante. Sì, certo. Sestante, perfetto. Però la paura è di insabbiarsi, di rimanere bloccati nel fango, di basta un temporale. Diciamo che la paura c'è, ma non è abbastanza perché partirete comunque, quindi voglio dire, cioè, c'è un po' di paura e un po' di attenzione. Però la cosa che volevamo capire, cioè, è come mai c'è soltanto un'auto prima italiana? Questo bisognerebbe interrogare gli altri 95 partecipanti che hanno scelto delle vetture anche inglesi che secondo me sono meno affidabili delle nostre, ma le vetture che sono state predilette sono quelle americane degli anni 35-40, di grossa cilindrata, bassi rapporti di compressione, anche perché in Mongolia la benzina non è che sia una V-Power, ecco. C'è un basso numero di ottani, quindi qualche problema. Ci sono problemi di detonazione con il rischio di bucare i pistoni, allora anche lì noi abbiamo fatto grandi grandi studi su questo e siamo stati aiutati da degli amici. Ecco, degli amici che però vi hanno aiutato, perché anche andate voi da soli, no, nel senso che per andare lì a Pechino, Parigi, cioè che cosa bisogna fare? Bisogna fare una domanda, bisogna passare un esame, bisogna avere dei finanziamenti, com'è che funziona? Cioè dove vado a iscrivermi alla Pechino, Parigi? Beh, intanto chiunque può andarsi a documentare su questo andando su Google e digitando Pechino Paris, sì, sì, salta no, fuori questo... l'enduro rally. Sì, ma anche noi potevamo farlo, però era meglio farlo dire a lei, capito? Se no non sarebbe stato molto radiofonico, certo. Per certi versi. No, questo sì, per mettere certo. Chi ascolta nelle condizioni di andare a vedere una cosa che noi abbiamo avuto, tra virgolette, la grossa fortuna di essere a Torino e quando 3 anni fa... nella precedente edizione il percorso prevedeva che dalla Grecia gli equipaggi si sarebbero imbarcati su un traghetto fino a Ancona, avrebbero attraversato l'Italia e sarebbero passati dalla tangenziale di Torino per andare a guadagnare poi il Monte Bianco per raggiungere Parigi. E noi siamo andati ad aspettarli sulla tangenziale, li abbiamo fotografati tutti, ci siamo intrattenuti per pochi istanti con loro e è incominciato quel tarlo. Aggiungo che noi siamo degli appassionati di auto storiche da tanti anni, no? E il terreno era estremamente abbiamo favorevole. Pochissimi minuti, però allora com'è che si fa a iscriversi a questa Parigi-Pechino? Intanto questi signori organizzano diversi eventi, sceglie l'evento che può piacere, hanno fatto la Londra Sydney, hanno fatto la New York Alaska passando dal Golfo del Messico. Ma voi siete sponsorizzati? E da quel lato lì devo dire che purtroppo abbiamo rotto i nostri salvadanai, non sono momenti nei quali si riescano a trovare degli sponsor. È una bella gara autogestita in questo caso. Sì, c'è da dire che il sito di questi signori ha più di 1 milione di visite, pertanto le vetture e la pubblicità che ci porteremo dietro avranno un notevole valore aggiunto internazionalmente parlando. Senta, in una parola velocissima, perché siamo proprio in chiusura, qual è la cosa che le fa più paura pensando a questo lungo tragitto e ai paesi che attraverserà? Cioè quella che gli crea maggior preoccupazione? Inesperienza. Io ho fatto 14 Monte Carlo, so che cosa... se dovessi andare a fare il 15° so perfettamente che cosa mi aspetta e quali sono le variabili. Qui l'incognita, noi abbiamo cercato di documentarci il più possibile, ma l'inesperienza, il sentito dire è importante, certo. Ma non è basilare come chi c'è già stato, chi ha visto, eccetera. Certo, noi la ringraziamo moltissimo, le auguriamo ovviamente tantissima buona fortuna, ci sentiremo magari al suo ritorno. Quando è che avviene tutto questo? Il 28 maggio? Il 28 di maggio la partenza, il 29 di giugno si spera l'arrivo. Va bene, sì, grazie. Una gara di velocità, grazie. Grazie, buona serata, grazie. Bene, 22:56, proprio ora che è arrivato Allegri. Vi giocate tutto nella prossima sfida, l'ultima di campionato contro il Siena. In corso si aspettava di chiudere già tutto stasera. Sì, però invece... Avevamo 2 partite a disposizione, ora ne abbiamo solamente una. Quella, acuto, non so se cogli. Primo tempo, soprattutto i primi 20 minuti abbiamo trovato delle difficoltà, eravamo un pochino troppo contratti, scaltriti giocare Roberto sì è quello del vetro al mix anche lui secondo me stasera sperava di chiuderla invece Cancellara io l'ho visto all'inizio poi è sparito cioè proprio comunque c'è anche salutare tra l'altro il Milan è in svantaggio sulla Fiorentina quindi nel caso in cui il Milan pareggiasse la Fiorentina vincesse andrebbe in Champions la Fiorentina perché lo so avete perso 3-1 in casa 2-2 a Firenze sì, passiamo dalla Pechino Parigi ad Allegri e a notizie un po' così quindi il Milan deve vincere a Siena hai capito? Nostre mani e che possiamo tranquillamente andare a vincere a Siena contro una squadra che è già retrocessa adesso, però oggi il Napoli ha fatto una buona partita è squadra già retrocessa però oggi è pericolosa ovvio Siena è terribile guarda, non è che Allegri può dire andiamo là e balliamo la rumba in mezzo al campo assolutamente implacabile vi lasciamo oggi appuntamento domenica prossima ultime puntate di Dai e Vai nel frattempo vi lasciamo con Allegri per passare una bellissima nottata grazie a risentirci quindi bisogna cercare di rimanere sereni. mangiare alla trattoria da Eolo e poterlo gridare ai quattro venti? Certo che sì! Su Bazzac puoi trovare le migliori occasioni ed esprimere sempre il tuo parere su ogni negoziante. Certo che sì! Bazzac.it. Ciao! Ciao! Sono la nuova vicina, non ho niente in frigo e... Beh, vieni a cena da me! Bambini! Il signore ci ospita! Nico, Sara, Giulio, Riccardo, dai, muoviti! Tommaso, Michele, Rocco, su! Lucia, corri! Bruto, Pupi! Sono davvero poche le buone occasioni. Solo fino al 31 maggio Toyota Ego Edition è tua a 7.950 euro con clima e radio CD di serie, anche senza rottamazione. Ti aspettiamo anche venerdì e sabato fino alle 21. C'è un'Italia che fa parlare il lavoro. Da 100 anni ascoltiamo quest'Italia. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. 2013, centenario BNL. Ciao Maria, scusami, sono sempre io, sono Carmelo. Volevo solo fare una piega promozione ai miei amici e alle storie tese. Il disco si chiama Album Bianco e ricordo a tutti quello che mi piace. È la canzone del complesso del 1° maggio. Comunque sembra un articolo che va forte. Il segnale orario vi è offerto da...